Pubblicata sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Antonio Luciniano, dal titolo E nel fruscio. E nel fruscio, nel flebile fruscio che anticipa il verso lancinante di una megattera, e nel fruscio che l'incalzare del tempo, il suo fecondo ritardare, gli attimi fuggevoli, le vele che si gonfiano di venti e desideri. È nel fruscio che diventa brezza, che muove velocemente verso l'orizzonte, come le dita di un pianista che ha finito i tasti. È nel fruscio lobo e incanta i cigni affamati e le rondini sprecciano verso autunni di memoria. È nel fruscio delicato e ancestrale dei tuoi occhi chiusi sul tramonto, il nuovo domani che prende il largo di Bolina. È nel fruscio ogni cosa che conta nella vita di tutti e di ciascuno.